Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Giornata molto molto densa oggi sul fronte economico-finanziario e piena anche di sviluppi. Andiamo con passo di gambero in ordine, partendo dalle ultime novità. Allora, come vi hanno ricordato anche i nostri GR, si è dimesso in blocco il comitato di presidenza dell'ABI e quindi dell'associazione che rappresenta le banche italiane, perché ha scoperto che nel disegno di legge sulle liberalizzazioni c'è una norma non prevista prima che elimina le commissioni per l'affidamento. Adesso la spiegheremo a lungo, però in sostanza quando uno va in banca e chiede un prestito, la banca, non so, uno può chiedere 50.000 euro, mettiamo, la banca mette a disposizione questi 50.000 euro. Finché tu non li usi ti fa pagare una commissione, quando poi inizi a usarli ti fa pagare l'interesse, come avviene per qualunque prestito. Ecco, la norma prevede l'eliminazione di questa commissione. Reazione molto dura da parte appunto di Musse, del presidente dell'ABI, di tutti di tutto il comitato di presidenza, che si è dimesso in blocco. Ne parleremo in apertura con anche il direttore generale dell'ABI. E poi altra notizia riguarda lo spread. Lo spread è sceso dopo la decisione della Banca Centrale Europea di ieri, che sta causando una marea di problemi a Mario Draghi in Germania. Ieri fummo facili profeti nel dire: mamma mia, se ne accorgessero i tedeschi che la BCE sta facendo la banca centrale vera e non quella che vorrebbero loro, cioè il guardiano di un'inflazione che non esiste. Se ne sono accorti, perché è vero che insomma sono tedeschi, ma poi se ne accorgono. E infatti questa mattina sia il numero uno della Bundesbank, della banca centrale tedesca, sia la stampa tedesca ha detto: Mario Draghi sta facendo politica, qui c'è il rischio di creare una bolla. Cioè il fatto che l'asta di ieri fosse illimitata, oltre 500 miliardi prestati a 800 banche europee, tra cui molte banche tedesche, questo forse dovrebbero ricordarselo anche a Berlino, a un tasso agevolatissimo dell'1% per 3 anni, potendo dare come controparte, come collaterale, quasi qualunque cosa, secondo la Germania è un aiuto politico ai paesi e alle banche di quei paesi. Perché? Perché le banche di quei paesi, Spagna, Italia soprattutto, sono anche piene di BOT, BTP, e quindi in questo modo potranno comprare debito, cioè di fatto è un aiuto ai paesi più in difficoltà. Ne parleremo di Germania più avanti. Draghi era stato ben accolto, all'inizio c'era molto scetticismo in quanto italiano, poi si sono accorti che non tutti gli italiani sono come Schettino, e vabbè. Poi però adesso è tornato fuori il pregiudizio su Draghi. A mio avviso, lo sapete, Mario Draghi sta facendo benissimo, cioè in tutto il mondo per uscire da sta crisi le banche centrali fanno una cosa che solo la Germania non vuole, e cioè stampano moneta. L'America sta uscendo dalla crisi perché la Federal Reserve ha stampato moneta per 4 anni, e sono americani, non sono spagnoli o italiani. E la risposta migliore, dice infatti oggi la Süddeutsche Zeitung, Mario Draghi ha regalato 1.000 miliardi, a parte il fatto che sono prestati per 3 anni, dopodiché li ha regalati anche a Commerzbank, che era la prima banca che sarebbe saltata, visto i conti, senza questo intervento, ha cercato di far respirare l'economia. E la risposta migliore che si può dare alla Germania è il dato di oggi sulla disoccupazione, perché è chiaro che continuare a tagliare giustamente il deficit e il debito, ma senza creare lavoro, senza creare economia, porterà tutta l'area euro sul baratro greco. Ok? Allora, la disoccupazione in Italia a gennaio è andata ai massimi dal 2004. Al 9,2%, e la disoccupazione dei giovani è salita al 31,1%. 2.300.000 disoccupati a gennaio, è un record appunto da 8 anni. Voglio dire, vogliamo parlare anche di questo o dobbiamo solo parlare dell'inflazione che non c'è, cara Bundesbank, cara Frau Merkel? Perché questo è il punto: più disoccupati tu hai, meno consumi hai, meno vende l'economia. Marx disse a suo tempo: esiste la spirale viziosa dell'economia, questa è una spirale, e tu produci meno e hai più disoccupati hai, meno produci, e via così. il 29, o meglio il 31, la Germania si infilò in questo tunnel proprio per un rigore monetario inutile, e non l'eccesso di inflazione, il rigore monetario inutile, che la portò dritta dritta nel nazionalsocialismo. Erano altri anni, per carità. Il gallo però lo metto, e lo metto subito, avete ragione, perché nonostante le perplessità della stampa tedesca e della Bundesbank, Dio quanto sono insopportabili i primi della classe, anche quando ero a scuola sono insopportabili, saranno pure bravi ma sono insopportabili, lo spread italiano-spagnolo è sceso a 304 punti, alla faccia di chi diceva che non servono le misure, che lo spread non era colpa della situazione politica. 304 punti non si vedevano da agosto. Gallo, e poi notizie in breve. Vai. Ne parleremo di Germania più avanti, adesso non posso continuare, la posizione di chi conduce questo programma la conoscete, va bene il rigore, va bene, giusto che la Grecia paghi, che l'Italia paghi, giusto mettere a posto i conti, ma non umiliare e basta, pensare che l'unico problema dell'euro sembra il debito, ma vogliamo creare anche un po' di crescita, ah no, perché in Germania tanto esportano, perché hanno i tassi sotto zero, quelli reali, e quindi è più conveniente indebitarsi, e hanno l'effetto anche, diciamo, della loro bellissima struttura industriale. Allora facciamo un euro solo per la Germania e finiamola qua. Vabbè, la borsa, non c'è solo lo spread, la borsa va benissimo a Milano, più 2,50%, ma anche a Francoforte e a Parigi, Parigi più 1%, Francoforte più 1, Londra più 0,90, in America più 0,20, l'euro a quota 1,33. Perché è così forte la borsa italiana? Perché da noi pesano molto le banche oggi stanno tutte schizzando. Il Banco Popolare più 9,93, UbiBanca più 5,70, Popolare di Milano più 5,50, Unicredit più 5,30, Monte dei Paschi più 5,20, Popolare Emilia Romagna più 5, Intesa più 3,90. Le banche italiane ieri hanno chiesto, all'interno di quei 529 miliardi, ne hanno chiesti 114, parecchi. Vediamo che li usino, il punto è che li usino per la nostra economia, ne parleremo fra poco, non è che non averli, ma perché bisogna andare al credit crunch per far contenti i tedeschi e il loro rigore mortis? L'oro è a $1,700 l'oncia, il petrolio è a $107,8, l'Eni ha annunciato con Gazprom un accordo sulla revisione dei contratti di fornitura di gas per il via libera al South Stream, che inizierà a essere costruito entro il dicembre del 2012, cioè l'avvio dei lavori entro il dicembre del 2012, e poi l'andamento dei nostri tassi. Tasso dei BTP a 10 anni sotto il 5%, per italiani chiaramente, per la prima volta anche qui da agosto, ragazzi eravamo arrivati a 7 passa, al 4,99%, ma questo evidentemente frega poco ai tedeschi. BTP 2 anni sotto il 2% per la prima volta da ottobre del 2010, cioè riusciamo a indebitarci sul mercato, adesso quello secondario, a un tasso minore dell'ottobre del 2010, quindi di ben prima che partisse l'attacco a Spagna, Italia e anche Francia. E poi il dato sulla disoccupazione, torneremo a occuparcene, scusatemi il gioco di parole, la Presidente Confindustria Marcegaglia ha definito molto preoccupanti questi dati, ha anche aggiunto: dobbiamo fare equilibrio di bilancio, ma se non ricominciamo a crescere i problemi saranno molto forti, cioè non si è mai visto un malato che tu riesci a curare semplicemente con la dieta, poi a un certo momento le proteine dovrai dargliele da qualche parte, va bene la dieta, va bene rimettere in ordine il suo apparato digerente, ma poi dagli anche qualcosa, un ricostituente. Quando uno piglia l'antibiotico piglia anche le vitamine, non so più come spiegarlo. L'inflazione invece che tanto preoccupa la Germania è, o meglio che è l'unico mandato della Banca Centrale Europea, è leggermente risalita a febbraio al 3,3%. Ed è tutta causata dal prezzo del petrolio, cioè non è un'inflazione generata dal fatto che gli europei si sono messi a spendere e spandere perché in un cupio di soldi vogliono bruciarsi gli ultimi risparmi che hanno in banca. No, si chiama gasolio e benzina e si chiama inflazione importata, più 18% rispetto a un anno fa la benzina e più 25% il gasolio. Il caro della spesa dei prodotti acquistati con maggior frequenza, e quindi cibo e carburanti, infatti è salito del 4,5%. Oggi non ho tempo di farvi ascoltare, anzi sì, datemi, ma cos'è questa crisi, che ho due cose carine e poi partiamo subito con l'Avi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Lo diciamo spesso che la crisi ha due facce, c'è chi l'ha chiamata 2.0. C'è la faccia nostra, quella che la crisi la vede tutti i giorni, e poi c'è un mondo che invece non conosce crisi, conosce il boom più forte da decenni. Il numero di africani che vivono in condizioni di estrema povertà è diminuito per la prima volta da 30 anni. Il rapporto della Banca Mondiale riguarda il periodo compreso tra 2005 e inizio 2009. Per la prima volta dal 1981, meno della metà della popolazione africana vive con meno di $1.25 al giorno. Praticamente in tutti i paesi in via di sviluppo la percentuale di persone che vivevano in condizioni di estrema povertà è scesa al 22% contro il 25% del 2005. Cioè stiamo parlando di 1.280.000.000 di persone che vivono con meno di $1.25 al giorno, contro 1.390.000.000 di persone nel 2005 e 1.900.000.000 di persone, cioè nel 90. Dal 90 al 2008 sono uscite da quella povertà, che significa poi morte, 600.000.000 di persone. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? E poi pensate che c'è Martino Scialpi, abita a Martina Franca a Taranto, ha 59 anni, fortunato lui che finalmente ha avuto riconosciuta una vincita che gli fu negata 30 anni fa, fece un 13 al totocalcio, allora valeva 1.000.000.000 di lire, nell'81 non è poca cosa. Non ha potuto incassare perché la titolare della ricevitoria smarì la matrice della schedina. Ha fatto un'infinita serie di processi e finalmente il Tribunale Civile di Roma, dopo 30 anni, quindi rapido, gli ha dato il diritto a riscuotere quella vincita. Adesso praticamente il CONI dovrà pagare €2.344.000 nei confronti al signor Martino Scialpi, 30 anni, però evidentemente poi ce l'ha fatta. È passata in questo momento al Senato la fiducia sul decreto liberalizzazioni con 237 sì, quindi buona la maggioranza, furono 225 nel precedente voto, quindi è salita anche di 7 voti, 33 voti contrari. Adesso si va alla Camera ed è passata appunto il decreto che ha fatto così infuriare, tra le altre cose, anche le banche italiane. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, partiamo proprio dalle banche che si sono così arrabbiate e dalle dimissioni in blocco per questa norma che leva la commissione sull'affidamento, abbiamo spiegato cos'è, dimissioni in blocco del comitato direttivo dell'ABI, di presidenza dell'ABI. Giuseppe Mussari ha detto non è un gesto di frustrazione. Non è un gesto di frustrazione. Noi non siamo assolutamente frustrati. Noi avevamo il bisogno di dare un segnale chiaro di questa situazione. E lo abbiamo fatto mettendo a disposizione quello che avevamo, cioè il nostro mandato, cosa non del tutto solita in questo Paese. Quindi siamo tutt'altro che frustrati. Se fossimo frustrati non saremmo qui a dire questa norma è bene che si cambi, siamo contenti che alla Camera qualcuno ci stia pensando, siamo contenti che lo spread scenda, vogliamo che gli impieghi riprendano la loro dinamica normale. Noi stiamo qui convinti di lavorare per un grande Paese, di rappresentare una industria bancaria sana e solida, e rispetto a questo ci metteremo tutte le energie di questo mondo, altro che frustrazione. Così appunto il presidente dell'ABI Giuseppe Musseri, un po' di frustrazione però ci deve essere nell'ABI, e lo pensa anche il ministro Passera. Proprio in questo istante è uscita un'agenzia in cui il ministro Passera, ex numero uno Corrado Passera di Intesa San Paolo, conosce benissimo l'ABI, ha detto Passera: le dimissioni del presidente dell'ABI Giuseppe Musseri sono il sintomo di del grande disagio del settore bancario che è vicino all'economia del paese. Quando gli hanno chiesto ma la norma sulle commissioni si potrà cambiare, non lo so, ha replicato Passera, è Monti che deve decidere. Dicevo che un po' di frustrazione nel mondo bancario ci sia, lo si capisce anche da questo altro passaggio della conferenza di Giuseppe Musseri, perché lui parla esplicitamente di goccia che ha fatto traboccare il vaso, quindi non di un elemento che da sole basta far rompere tutto e a far dimettere in blocco il comitato di presidenza, ma di un vaso che era già pieno e che poi è traboccato. La norma, diciamo che è la goccia che fa traboccare il vaso. Sicuramente prendiamo atto con soddisfazione che si pensi di modificarla nel decreto semplificazioni, o meglio, modificarla, riportarla alla sua originaria natura, su cui noi siamo d'accordo, cioè come sanzione a chi tiene comportamenti non trasparenti, ma è la situazione generale che ci preoccupa. Perché si crea una cosa di questo genere, non si trova una soluzione? Perché risolvere un problema non facendo un favore all'industria bancaria può sembrare cosa sconveniente? Questo non è giusto. Non è giusto per le 300.000 persone che lavorano in banca, per chi temporaneamente le rappresenta, e non è giusto perché noi stiamo facendo un grande lavoro per questo Paese, con grandi difficoltà. Ma lo stiamo facendo, e allora crediamo che sia arrivato il momento di dire basta a questa cosa qui. Vogliamo essere trattati per quel che valiamo, non per le polemiche di alcuni o per le strumentalizzazioni di altri. Nel momento in cui non esiste più la commissione sull'affidamento, no? Perché questo è evidente che per mettere a disposizione dei soldi, mi immagino, si dovrà rivedere complessivamente il sistema creditizio che le banche hanno in piedi. E insomma, un po' di frustrazione in questa parte del discorso del presidente dimissionario dell'ABI, Musseri è più chiara, dice insomma qui la sensazione è che non si sia sbagliato per caso, forzo un po' il concetto, ma si sia sbagliato perché c'è un atteggiamento ideologico antibanche contro il mondo bancario, e quindi difendere o portare avanti anche le esigenze dell'industria bancaria è poco pagante da un punto di vista politico. Insomma, dopo la politica, dopo la casta della politica, l'accusa è, in questo momento so ben capito, che vi sia un atteggiamento pregiudizialmente contrario al mondo bancario. Chiedo conferma al direttore generale dell'ABI, Giovanni Sabatini, buonasera. Buonasera. Lei è ancora direttore, vero? Non fa parte di chi si è dimesso come Musseri? No, io sono ancora a capo della struttura tecnica. Certo, no, era per capire che le dimissioni le ha date appunto il... È il comitato di presidenza che ha rimesso il mandato al comitato esecutivo del Consiglio. Allora, veniamo alla parte, fra poco veniamo anche alla parte tecnica, ma mi dica una cosa, lei è d'accordo con il suo presidente, e cioè che questa norma non sia solo un errore, ma c'è il sospetto che faccia parte di una non volontà di capire le ragioni del mondo bancario e un prezzo politico, o meglio un guadagno politico che si otterrebbe di più e si ottiene di più se si attaccano le banche? Noi riteniamo e rivendichiamo la nostra natura di industrie, di industrie private, che hanno bisogno di un quadro normativo certo, all'interno del quale si sviluppa una sana competizione improntata ai massimi principi di trasparenza e correttezza, e quindi all'interno del quale le banche, come tutte le altre industrie, possano gestire al meglio i propri ricavi. Osserviamo da un po' di tempo a questa parte che questa ovvia constatazione, e cioè che le banche sono industrie e che possono svolgere il loro compito all'interno di una economia di mercato a sostegno dell'economia reale, viene messo in dubbio soprattutto attraverso una produzione normativa che ci impone vincoli amministrativi, prezzi amministrati e altri orpelli normativi che non conoscono pari rispetto al resto del quadro europeo e allora, mondiale. Ho capito. Proviamo ad avanzare un'ipotesi, perché fino a ieri il vostro grosso cruccio era la norma che riguardava i conti correnti gratis per i pensionati. Avete detto che sarebbe costata al mondo bancario 1 miliardo di euro. Adesso invece c'è questa norma. Però, domanda, non è che diventi anche politicamente premiante e che quindi che questa norma è passata con una proposta bipartisan PD-PDL, Bubbico-Vicari, non è che diventi premiante da un punto di vista politico, diciamo, prendersela, tra virgolette, con le banche, perché in questo momento nell'opinione pubblica, non nella politica, il vostro gradimento è ai minimi, anche perché avete ricevuto 500 miliardi, non voi, il sistema bancario europeo, l'Italia 114 nella prima tranche, ieri ne avete chieste altri 114, sempre la Banca Centrale Europea, ma le piccole imprese, gli artigiani, i cittadini non vedono il risultato, cioè vedono solo che voi prendete all'1% i soldi e poi li reinvestite in bot o vostre obbligazioni che rendono il 4-5%, e all'imprenditore viene chiesto o di rientrare o gli si aumenta il tasso per il fido o non glielo si dà proprio. Guardi, cioè non è la conseguenza di un malessere dell'economia reale nei confronti del mondo bancario, e che quindi la politica, per interessi e scopi suoi, va a intercettare e ve lo scarica contro? Guardi, il malessere nei confronti del sistema bancario può essere spiegato in quei paesi dove le banche sono state salvate dai soldi dei contribuenti, non certo in Italia, dove le banche non solo non hanno avuto bisogno di essere salvate dai soldi dello Stato, ma addirittura dove le banche di loro iniziativa aiutano imprese e famiglie con iniziative come la sospensione dei mutui per le famiglie e poi l'altro ieri l'iniziativa del nuovo avviso comune, che di nuovo fornisce ossigeno attraverso misure come la sospensione della rata sui mutui delle piccole e medie imprese, la possibilità di rinegoziare allungando il piano d'ammortamento del mutuo sempre nei confronti delle piccole e medie imprese, quindi un'industria bancaria che è vicina a imprese e famiglie. Quindi francamente non comprendo il motivo di questo atteggiamento. Ancor di più a fronte di queste iniziative che comunque pesano su un'industria che, come le altre industrie, sta soffrendo la crisi e la congiuntura che ci vede in recessione e che quindi non ha veramente motivo di essere ulteriormente penalizzata con provvedimenti normativi che solo nei confronti delle banche portano aumento di penalizzazioni e sicuramente non comportano liberalizzazioni. Allora, adesso abbiamo il metro alla pubblicità, poi cerchiamo di capire che cosa succederà se la norma venisse confermata, cosa succederà agli affidamenti bancari, agli assegni. Però una cosa, Sabatini, lei che è il direttore generale dell'ABI, delle banche italiane, un po' più di allegria. Avete ottenuto ieri 114 miliardi come sistema bancario. le avesse avute il resto dell'economia. Allora, il bicchiere sarà anche mezzo vuoto su questa norma, ma è anche bello mezzo pieno. Tra la prima tranche e la seconda, Mario Draghi ha messo a disposizione 1.000 miliardi di euro a 800 banche europee. Di questi 1.000 miliardi, le banche italiane che le rappresentano ne hanno presi 230. Oh, non è tutto solo, non è tutto solo negativo, eh? Non è tutto solo cioccolata. Meteo. :17:38, mentre le borse hanno chiuso festeggiando, Milano più quasi più 3%, Parigi più 1,40, Francoforte più 1,20, festeggiando ciò che sta facendo arrabbiare i tedeschi, sia il fatto che Mario Draghi stia utilizzando la Banca Centrale Europea come una vera banca centrale, non come una specie di ISO 9000 dell'inflazione, e mi dispiace per i tedeschi. E dovrebbero essere contente le banche italiane: Banco Popolare più 10,50%, UbiBanca più 6%, Popolare Milano più 5,80%, Unicredit più 5,80%, Popolare Emilia Romagna più 5,80%, Monte dei Paschi più 5,5%. Invece sono furibonde, tant'è che si è dimesso tutto il comitato di presidenza dell'ABI per questa norma di cui stavamo parlando con il direttore generale dell'ABI, dottor Sabatini, invitandolo però ad essere anche un po' più allegro, perché insomma avete ottenuto ieri come mondo bancario 110 miliardi passa di euro, averli avuti noi all'1% per 3 anni, dando anche la suocera, dico scherzando, come collaterale. Allora, che cos'è il problema nell'aver levato con questa norma la commissione sugli affidamenti? Cioè, io vengo in banca, chiedo 50.000 euro, voi me li mettete a disposizione e finché non li utilizzo mi fate pagare una commissione, poi quando inizio a utilizzarli mi fate pagare invece l'interesse, ho capito bene? Assolutamente, ecco. Si chiama commissione di messa a disposizione. Di messa a disposizione, perché io dico, io potrei aver bisogno di questi 50.000 euro, voi li mettete da parte, quando fisicamente inizio a usarli ne prendo 10, 20, 30, voi mi fate pagare gli interessi su questo, finché non li uso comunque pago una commissione. Ecco, perché è così grave averla levata? Cioè, in effetti sono soldi che comunque io non sto utilizzando. Finché voi mi applicate la commissione, i soldi li avete solo messi lì a disposizione. Certo, però questo significa che io ho dovuto impegnare una parte della liquidità che ho raccolto, mettergliela a disposizione, quindi in qualunque momento lei vuole tirare sul fido, io devo essere pronto a rispettare il mio impegno, e comunque questo impegno che ho preso nei suoi confronti mi richiede assorbimento di capitale, perché comunque ho un rischio potenziale di credito nei confronti del cliente. Tutto questo ha un costo che trova remunerazione nella commissione di messa a disposizione dei fondi. A quanto ammontano queste commissioni però, Sabatini? Guardi, il mercato ha essendo molto competitivo, ha dei comportamenti molto diversificati, e soprattutto noi non facciamo nessuna rilevazione sulle commissioni applicate dai nostri associati, perché questo non ci è consentito dalla normativa antitrust. Ok, per cui voi dite è giusto che io le faccia pagare Barisoni una commissione, perché ne ho messo dei soldi a disposizione, anche se lei non ha ancora utilizzati, però io i soldi li ho messi lì, diciamo, sulla scrivania. Poi quando lei li tocca le faccio pagare gli interessi, ma già averli messi lì significa uno sforzo per me. Domanda: se non si riesce a cambiare questa legge, Mussari diceva forse in una parte del decreto potrebbe essere modificata, però che cosa capiterà? Cioè, aumenterete le commissioni, gli interessi finali? Allora, credo che il risultato sarà una riduzione della disponibilità di credito per le imprese e per le famiglie, perché non potranno essere aumentati i tassi di interesse, perché comunque ci sono le norme sull'usura che creano una soglia all'incremento dei tassi. Ma peraltro, nel caso che facevamo prima, se lei ha questa disponibilità e non la utilizza, non c'è tasso di interesse che tenga che mi rimuneri il fatto di averle messo a disposizione la somma. Quindi probabilmente si ridurrà di molto la possibilità di concedere affidamenti di questa natura ai clienti. E ulteriormente, poiché scompariranno anche le commissioni che possono essere applicate in caso di sconfino non autorizzato, quindi nei casi in cui, ad esempio, per una discrasia tra incassi e pagamenti lei ha emesso un assegno e non ha la disponibilità sul conto, oggi la banca fa un'istruttoria veloce, riconosce che lei è una persona affidabile e quindi anche in assenza di fondi e di affidamento le copre l'assegno. Però ovviamente fa un'istruttoria che comporta dei costi. Questi oggi sono remunerati, coperti da una commissione. Domani questa commissione non potrà essere applicata e probabilmente la banca non sarà più in grado di coprirle l'assegno e quindi l'assegno sarà protestato. Quindi alla fine questi meccanismi che impongono prezzi amministrati hanno un impatto diretto sull'economia e sulla possibilità di fare efficacemente il mestiere di banca commerciale nell'interesse di imprese e famiglie. Allora, Sabatini, io ho capito cosa voi lamentate, ha un costo, c'è un rischio poi di stringere ulteriormente, l'ha detto, la possibilità di dare affidamenti ai clienti e anche di vi porterà, questo è un po' la minaccia, vi porterà a trasformare subito un assegno non coperto in uno scoperto e quindi in un cabriolet, in un protesto e non, diciamo, a supplire perché c'è un rapporto con il cliente per cui si sa che magari è andato sotto, non era coperto per pochi giorni o poche settimane e nel frattempo ci pensate voi. Però una cosa gliela devo dire, cioè, voi avete ottenuto come settore industriale, visto che giustamente dite che siete un settore industriale, più di qualsiasi altro settore industriale in questo paese, cioè il mondo della manifattura, il mondo dei servizi, oggi abbiamo il dato sulla disoccupazione, lo leggevamo, è a record. Avete ottenuto da Mario Draghi come banche italiane 114 miliardi due mesi fa, 114 miliardi ieri. Le banche italiane hanno chiesto un'intesa 24, Unicredito 12, un po' meno, UBI 6 miliardi. Un po' di contentezza su questo non c'è, cioè si sente sempre un po' di lamento, no? Allora, questi soldi li avete ottenuti, che ci starete anche guadagnando come banche, no? Perché all'1% li vorremmo avere anche noi i soldi, dando in garanzia di tutto. Ieri ridevamo, fra un po' si porta anche l'amante, la suocera in garanzia, no? Perché vi permette Mario Draghi di portare qualunque cosa in garanzia. Magari io potessi venire in banca e portare in garanzia le cose che voi portate alla BCE. Non ci dovrebbe essere un po' più anche dire, guarda, grazie Draghi, però attenzione a queste commissioni, no, se no non si capisce tutto lo sforzo che sta facendo Mario Draghi e che gli sta costando le critiche di mezza Germania oggi. Guardi, noi riteniamo che l'intervento della Banca Centrale Europea sia stato fondamentale per evitare quello di cui si parla, e cioè il credit crunch. Grazie alla liquidità immessa a dicembre e ieri dalla Banca Centrale Europea, il credito in Italia è continuato a crescere, anche se a tassi in rallentamento, perché quello che si è verificato è un rallentamento della velocità di crescita dello stock. Beh, anche un aumento delle commissioni praticate, però, no? Distinguiamo tra commissioni e tassi di interesse. Tassi, sì, ho capito. Il tasso di interesse, però, rappresenta il premio per il rischio. A fronte dello stesso costo di raccolta, io praticherò dei tassi differenziati in funzione della rischiosità della controparte. Vabbè. Perché ovviamente un'impresa sana, solida, riceverà un certo tasso che non sarà uguale a quello di un'impresa che ha delle difficoltà finanziarie. Quindi il riferimento al tasso della BCE non è un riferimento corretto. È chiaro che quella liquidità sostitutiva che ci ha fornito la Banca Centrale Europea, e che chiamo sostitutiva e non è addizionale, perché è quella liquidità che va a compensare l'essere venuta meno la liquidità che prima le banche italiane raccoglievano sui mercati internazionali dagli investitori istituzionali privati. Sabatini, ok, ho capito tutto, cioè ho capito che su questo non ci capiamo forse, nel senso che io dicevo semplicemente avete ottenuto come aiuto da Mario Draghi proprio soldi sostitutivi, perché tra di voi non ero io che non vi prestavo i soldi, è tra voi banche che non ve li prestate più a livello europeo. Mario Draghi, facendo un'operazione al limite di quello che è consentito, che adesso i tedeschi gli vogliono far pagare, vi ha prestato a tutto il sistema bancario europeo 1.000 miliardi in due tranche. Alle banche italiane, nello specifico, 300 miliardi in due tranche. Non esiste un settore industriale, non esiste un'industria, un artigiano, un settore dei servizi che abbia ottenuto così tanto denaro all'1% per tre anni. Non ce n'è uno. Se ce n'è qualcuno, mi scriva al 349-238-6666. È ovvio che tanto voi non potete fallire mentre l'artigiano può fallire, il piccolo imprenditore può fallire, perché se voi fallite siete sistemiche e infatti siete un'industria un po' strana, perché le industrie vere falliscono, purtroppo, mandano gli operai in cassa integrazione, portano i libri in tribunale. Le banche per legge non possono fallire, quindi quando vi fa comodo vi chiamate industria, quando non vi fa comodo vi chiamate banche. Dicevo solo un po' di gratitudine, perché adesso andremo a vedere domani se anche nel resto d'Europa si paga questa commissione per l'affidamento, oppure se si paga solo la commissione, o meglio gli interessi, quando i soldi fisicamente me li dai. Perché, voglio dire, sarebbe come se l'alimentarista ti tirasse fuori il prosciutto e intanto che te lo mostra lì ti fa pagare una commissione, poi quando lo affetta, te lo pesa, ti fa pagare il prezzo complessivo. So che non è così, ma insomma, no? Riconoscete che ci sono settori industriali in questo paese che non sono messi peggio di voi, ma voglio chiudere con un ricordo su cui lei si associerà. È purtroppo scomparso Lucio Dalla, ricordiamolo così, visto anche il tema. Interlupa, eh? Allora la usiamo anche dopo, attenti al lupo. Chiedo scusa al traffico, c'è il traffico, grazie al direttore dell'ABI Giovanni Sabatini per la disponibilità. Ogni tanto mi arrabbio con le banche, porte pazienza, e con i tedeschi, figurarsi con le banche tedesche. Traffico e poi la borsa, le banche oggi dovrebbero essere contente, più 10,5% Banco Popolare, più 6% UbiBanca, più 5,80% la Popolare di Milano, grazie a Mario Draghi. Traffico. Allora, mentre eravamo in diretta con il direttore generale dell'ABI, molti di voi hanno scritto, purtroppo non riesco a fare due cose in contemporanea ogni tanto, hanno scritto che la commissione, mediamente la commissione per quando la banca mette a disposizione i soldi, è dello 0,5, c'è chi scrive anche del 2%, non è poco, e poi che la commissione si continua a pagare anche durante l'utilizzo. No, dico, vabbè, perché siccome Mussari si è dimesso, io ho l'impressione che il presidente dell'ABI Mussari, come ho detto, si sia dimesso perché, lo ha detto anche lui, il vaso, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, si sentono sotto attacco le banche. Io dico che dovrebbero anche essere più contente per quello che hanno ricevuto la Banca Centrale Europea, ma chi se ne frega di quello che dico io, la borsa. Una raffica di rialzi, oltre a quelli che citavo, Unicredit più 5,80, Popolare Emilia Romagna più 5,80, Monte dei Paschi più 5,50, Intesa più 4,45, Generali più 4,14. E allora, Livia Zancaner, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Immagino che non sia la reazione alle dimissioni di Mussari, ma sia la reazione ai 120 miliardi di ieri dati da Mario Draghi. Sì, assolutamente sì. Appunto, ricordiamo che ieri c'è stata la maxi iniezione di liquidità da parte della Banca Centrale Europea, e come conseguenza oggi il comparto bancario è andato molto bene a Milano, grazie anche al calo del rendimento del BTP decennale sotto la soglia del 5% per la prima volta da agosto del 2011, e anche la discesa dello spread con il Bund tedesco intorno a quota 311 punti. Allora, tra l'altro abbiamo ricordato la buona notizia di oggi, che è uno spread che è sceso fino a 304 punti, i rendimenti sotto il 5% non capitava da agosto, e per quello che riguarda il BTP a due anni, correggimi Livia, mi sembra che sia dal 2010 come rendimento. Invece il brutto dato riguarda la disoccupazione, ma di quello parliamo dopo. Allora, bene per Mario Draghi, e questo chiude il commento sul mondo bancario, però Monte dei Paschi deve collocare un 15%, Sì, assolutamente sì, la banca ha guadagnato oggi il 5,5% e l'attenzione del mercato è infatti tutta concentrata sul prossimo collocamento fino al 15% del capitale della quota detenuta dalla Fondazione, ricordiamo che al momento è al 49%. Ieri la Fondazione ha precisato che proseguono le trattative per la rinegoziazione del debito con le banche creditrici e quindi appunto gli occhi sono puntati sulle prossime mosse. Al momento non è nota la tempistica, ma il mercato è in attesa. Ancora andiamo avanti con gli altri titoli. Dunque, ieri abbiamo avuto ospite Andrea Guerra di Luxottica. Luxottica aveva fatto un balzo, era il miglior titolo, oggi un po' di realizzi, meno 0,81%. Fiat, usciranno tra pochi i dati auto, ci si attende un massacro in Europa, anche e soprattutto in Italia, anche e soprattutto per Fiat. Però il titolo va bene oggi. Sì, oggi diciamo che è andato bene il comparto dell'auto in Europa e soprattutto sono stati positivi i dati comunicati da Chrysler, che ricordiamo è la controllata americana di Fiat. La società a febbraio ha venduto oltre 133.000 vetture negli Stati Uniti, cifra che rappresenta il 40% in più rispetto al periodo del stesso periodo del 2011 e si tratta del miglior mese di febbraio degli ultimi 4 anni. Quindi dall'Europa sì, si attendono dati negativi come peraltro negli ultimi mesi, ma dagli Stati Uniti sono arrivate soddisfazioni. Beh sì, mi sembra che l'abbia chiarito Marchionne, no? Gli Stati Uniti sono la sua soddisfazione, vabbè. Non voglio riaprire la polemica con Marchionne. Mediolanum, bene anche il titolo, più 2,56%. Sì, allora per Mediolanum la raccolta di gennaio nel risparmio gestito e amministrato è stata positiva, la banca si è posizionata al primo posto in Italia con 276 milioni di euro, di cui 71 di risparmio gestito. Secondo gli operatori i dati confermano quindi la capacità del gruppo di attirare la raccolta nonostante le incertezze dei mercati, infatti il titolo ha chiuso a più 2,5%. Livia, resta con noi, non ci lasciar, c'è il GR e poi gli altri titoli, anche A2A. Ma anche l'Igresti, la galassia l'Igresti continua a darci ampie soddisfazioni. 349-238-6666 per i vostri sms. Forse siamo riusciti a raggiungere nella seconda parte del programma uno dei due relatori, la senatrice del PDL Vicari, per quello che riguarda la norma che ha fatto arrabbiare così tanto le banche italiane, quindi levare le commissioni sull'affidamento per un prestito bancario. Ci sentiamo dopo il GRM. 18:09, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, sul tema delle banche, delle dimissioni in blocco, dei vertici dell'ABI, dell'Associazione delle Banche Italiane, perché nelle liberalizzazioni c'è una nuova norma che elimina la commissione per l'affidamento, cioè la commissione che si paga quando la banca mette a disposizione dei soldi. Molti di voi fanno notare che è dello 0,5% massimo trimestrale, e che poi si continua a pagare anche quando la banca quando tu i soldi realmente li utilizzi, oltre agli interessi sul prestito. Io non ho mai detto che le banche non entrano nella tecnica bancaria, ho solo detto, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, che vedere il bicchiere solo mezzo vuoto nell'industria bancaria significa non ricordare, rispetto alle altre industrie di questo paese, significa non ricordare A, che l'industria bancaria, a differenza dell'industria manifatturiera, dei servizi e di quant'altro, non può fallire, mentre abbiamo raggiunto il record oggi di disoccupazione dal 2004, vuol dire che qualcun altro invece problemi li ha avuti. B, che le banche, anche italiane, a differenza di tutti gli altri settori industriali, nemmeno l'auto ha più gli incentivi, hanno ottenuto 300 miliardi quasi di prestito a tasso praticamente zero, all'1% per 3 anni, dovendo fornire come garanzia cose che a noi non sarebbero consentite. Ho fatto la battuta sulla suocera, però evitate di fare la fila con la suocera in banca domani, era una battuta. Ecco, riconoscere che il mondo bancario ha ottenuto delle cose da Mario Draghi e rispetto a altri mondi soffre anche lui, ma vogliamo parlare delle costruzioni, cioè l'ANCE ha segnato 300.000 esuberi nel mondo delle costruzioni, vogliamo parlare della meccanica o vogliamo parlare dei settori dell'artigianato e anche del commercio? Lì il problema non ce l'hai mica Mario Draghi, lì vai in banca e ti trovi Mario Rossi che ti dice: mi dispiace, abbiamo avuto l'indicazione di farla rientrare dal fido, di aumentare la commissione, oppure i soldi non li possiamo dare. Questo vediamo noi che siamo dei poveracci radiofonici, non vediamo il resto. Comunque, Livia Zancaner, tu che invece non sei poveraccia, non sei radiofonica perché lavori a Radio Core, sei pro banche, no, scherzo, raccontaci cosa è successo a Fondiaria Assai oggi invece, il nostro pane quotidiano. Sì, allora oggi si è mossa tutta la galassia di Gressi che ha mostrato un andamento contrastato. Milano Assicurazione ha guadagnato oltre il 19%. Scusa, ma se quella di Gressi è una galassia, il buco nero dov'è? Non così imparate a dirmi ogni volta della galassia di Gressi, c'è un miliardo di buco con di debito con Mediobanca. No, scherzo, vai Livia. Allora, Fonseca ha guadagnato oltre il 5% e anche Unipol, che comunque in trattative appunto con la famiglia, ha guadagnato oltre il 7%, è scivolata prima finché poi ha limitato le perdite sul finale, ha perso il 2,5%. Allora, i fatti sono che praticamente proseguono le trattative tra banche, Advisor e Unipol per la ristrutturazione della galassia Premafin e Fonsai per l'integrazione con Unipol, anche se restano dei forti dubbi delle banche creditrici proprio sul piano di ristrutturazione di Premafin e quindi sulla conseguente integrazione con il gruppo bolognese. Ricordiamo che oggi era in calendario il CDA Premafin, che secondo indiscrezioni dovrebbe bocciare l'offerta di Sator e di Palladio. Comunque i riflettori del mercato sono ancora puntati su tutto il gruppo e sulla galassia, come dicevi tu. E sono anche puntati sul buco nero di questa galassia, visto che vogliamo usare questo esempio astrofisico. Altri titoli migliori e peggiori: investimenti e sviluppo più 19%, Milano Assicurazione, tu la citavi appunto, più 19,20%, sulle ordinarie, Banco Popolare più 10,50%, Pininfarina più 10,11%, Banca Carige più 8,5% e Unipol più 7,20%. Vivendi meno 7,80%, Archimedica meno 6,40%, Risanamento meno 4%, Sopaf meno 3,74%. A2A, Livia, e poi ti saluto purtroppo. Sì, allora diciamo che A2A ha perso oggi in borsa il 3% circa dopo l'avvio del collocamento della quota detenuta da Alpic, che pare a circa il 5%, un'operazione che poi sarebbe stata bloccata per le condizioni di mercato sfavorevoli. La Consob ha però avviato degli accertamenti per non essere stata informata preventivamente dell'operazione e anche per l'andamento anomalo del titolo, che nonostante l'insuccesso del collocamento ha comunque continuato oggi a perdere terreno in borsa, quindi bisognerà aspettare nuove notizie. Allora, mentre vedo che scrive un direttore di banca e dice guardi che è vero, se levano quella commissione ci sarà più concorrenza, i fidi si alzeranno i tassi sui fidi, ma la concorrenza sarà più trasparente. Infatti, Livia Zancaner, ti dispiace finire questo collegamento, di la verità. Sì, certo, moltissimo. Capito come menti bene. Grazie alla collega di Radio Corriere Sole 24 Ore. Noi invece siamo in grado di nuovo di parlare della cosa che ha fatto imbufalire l'ABI, tant'è che si è dimesso tutto il comitato di presidenza, e cioè questa norma che è entrata, e dovremmo essere in grado di parlarne con uno dei due relatori. Attenzione, questa norma che leva le commissioni sull'affidamento, cioè la commissione che parte prima ancora che tu utilizzi i soldi, solo perché la banca te li ha messi a disposizione, è bipartisan, cioè se non ricordo male la senatrice Simona Vicari del PDL e il senatore Filippo Bubbico del PD. Happy World. Sì, ricordiamo anche che il ministro Passer ha detto che queste dimissioni esprimono il disagio delle banche. La mia lettura, l'ho detto molto chiaramente con il direttore generale dell'ABI prima, Sabatini, è che sia l'ultima goccia, la goccia che fa traboccare il vaso, e non sia solo quel provvedimento. Devo dire che anche Mussari, nell'annunciare le sue dimissioni, un po' si è contraddetto, perché prima ha detto non è un gesto di frustrazione. Poi però, in questo passaggio che vi faccio sentire, ha detto, beh, insomma, è comunque la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La norma, diciamo che è la goccia che fa traboccare il vaso. Sicuramente prendiamo atto con soddisfazione che si pensi di modificarla nel decreto semplificazioni, o meglio, modificarla, riportarla alla sua originaria natura, su cui noi siamo d'accordo, cioè come sanzione a chi tiene comportamenti non trasparenti, ma è la situazione generale che ci preoccupa. Perché si crea una cosa di questo genere, non si trova una soluzione? Perché risolvere un problema non facendo un favore all'industria bancaria può sembrare cosa sconveniente? Questo non è giusto. Non è giusto per le 300.000 persone che lavorano in banca, per chi temporaneamente le rappresenta, e non è giusto perché noi stiamo facendo un grande lavoro per questo Paese, con grandi difficoltà, ma lo stiamo facendo. E allora crediamo che sia arrivato il momento di dire basta a questa cosa qui. Vogliamo essere trattati per quel che valiamo, non per le polemiche di alcuni o per le strumentalizzazioni di altri. Nel momento in cui non è possibile, cioè non esiste più la commissione sull'affidamento, no? Perché questo è evidente che per mettere a disposizione dei soldi, mi immagino, si dovrà rivedere complessivamente il sistema creditizio che le banche hanno in piedi. E poi avete sentito Sabatini dire, beh, anche sugli assegni, quando vanno in scoperto, a questo punto non potremmo più noi, se conosciamo il cliente, metterci un tampone. Dovremmo per forza andare in protesta perché non ci sono più le commissioni, abbiamo i costi tecnici, un po' una minaccia. E scrive un ascoltatore, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso delle banche, a noi il vaso invece si è rotto da tempo. Senatrice Simona Vicari del PDL, appunto, relatrice al disegno di legge sulle liberalizzazioni insieme al suo collega del PD Filippo Bubbico, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Sta ballando? No, no, che questo è un programma in cui si balla anche. No, a parte gli scherzi, ma... No, abbiamo appena votato, si è concluso tutto. Ho visto, una fiducia ampia ha preso Monti, più alta della volta scorsa, no? Sì, vuol dire che è un provvedimento che è stato condiviso, abbiamo valutato in commissione qui in Senato articolo per articolo, emendamento per emendamento, abbiamo ascoltato la voce del Parlamento che poi è la voce del Paese e abbiamo rafforzato il provvedimento in tanti punti. Sentivo un po' anche ciò che aveva detto il Presidente dell'ABI quando... Lui dice che dice che politicamente, se io traduco, politicamente paga attaccare le banche. Io mi sono permesso di obiettare che paga perché forse qualche responsabilità ce l'hanno anche le banche, però insomma paga attaccare le banche e quindi questo è l'ultimo atto di un gioco in cui voi come politici andate a ricostruire consenso attaccando le banche. Vorrei sapere la sua risposta dopo il traffico, le chiedo un minuto di pazienza, 349-238-6666 per i vostri sms e anche se non teme che poi le banche ce la facciano pagare e cioè aumentino i fidi, le commissioni oppure sugli assegni scoperti, cioè che poi alla fine comunque il risparmio per noi non ci sia perché quello che esce dalla porta rientra dalla finestra. Traffico. Allora, senatrice Vicari, visto che lei appunto è assieme al senatore Bubbico la prima firmataria dell'emendamento che leva le commissioni dall'affidamento. No, questo è un emendamento a firma PD, la prima firmataria è la senatrice Fioroni. Ok. Però perché? Ce l'avete con le banche, ha ragione Mussari? E vi è comodo politicamente attaccare le banche così guadagnate consenso? Ma io non credo che sia assolutamente in questo modo. Quando Monti ha annunciato il provvedimento in Europa ha detto, io condivido appieno le sue parole, che questo è uno strumento strategico per la modernizzazione del nostro sistema economico e produttivo e con questo provvedimento che esce ancora più forte dal Parlamento non c'è dubbio che si spezzano incrostazioni e rendite di posizioni a 360 gradi. Noi nel provvedimento abbiamo potenziato anche i poteri dell'antitrust che dovrà vigilare preventivamente e valutare i contratti anche delle banche, dovrà valutare se ci sono delle clausole particolarmente vessatorie nei confronti dei cittadini e se poi il sentimento diciamo nazionale, quello che adesso veramente i cittadini non ce la fanno più, non si può non ascoltare questa voce e non si può non porsi degli interrogativi anche del comportamento delle banche nel nostro sistema produttivo e imprenditoriale. Voglio dire, è di oggi la notizia, di ieri, che le nostre banche hanno comprato 100 miliardi. No, hanno avuto in prestito, non hanno comprato. Hanno avuto in prestito 100 miliardi, però ad un tasso all'1%. Per 3 anni, e poi certo. Le imprese comunque a tutt'oggi sono ancora affogate. Ecco, io non vorrei che invece le banche, che in questo momento sono in un momento di crisi e di incertezza finanziaria, finanziaria attraverso, diciamo, questo rafforzamento che abbiamo messo in Parlamento mostrano tutta la loro fragilità e non possiamo consentirci. Sì, allora, io ho detto prima che se si vuole essere un po' equilibrati va bene lamentarsi per questa norma, si poteva anche festeggiare il fatto che Mario Draghi ha dato ieri 120 miliardi alle banche italiane a tre anni all'1%. Cioè, bicchiere mezzo pieno, come uno che viene a casa tua, beve il vino al rosso, dice però non c'è il bianco, capito? No, intanto non c'è dubbio. Allora, mi ha elevato il bianco. Detto questo, a me fa un po' sorridere vedere che la gara è tra la politica e le banche nel chi riesce a recuperare maggiore consenso, perché è una gara, lei ammetterà, senatrice, dura, se facesse un sondaggio in onda, se sono più popolari le banche o la politica, ve la giocate veramente al photo finish. Detto ciò, quando avete, questa norma potrà essere modificata, oppure, perché su questo forse l'ABI ci spera ancora, oppure per voi è un punto di diritto e non si tocca? Guardi, la proposta era del Partito Democratico, noi l'abbiamo condivisa, il governo l'ha anche apprezzato favorevolmente e quindi l'abbiamo approvata in commissione, e così come è stata votata in commissione è approdata rigorosamente in aula. Io poi l'ho anche dichiarato quando ho sentito la notizia delle dimissioni del presidente Mussari, che spetta al governo individuare regole anche di attuazione di quanto deliberato e votato dal Parlamento. Se ci saranno, insomma, delle valutazioni che saranno considerate vessatorie, al contrario, nei confronti delle banche, possono proporre modifiche, così lo diceva anche il presidente dell'AB, possono proporre delle modifiche, il Parlamento con tutta serenità. Sì, basta che non sviliscano tutto, cioè sui professionisti. A me non è piaciuto quello che è successo, perché sui professionisti ne sono usciti tutto sommato salvati dal disegno di legge sulle liberalizzazioni. Gli ordini professionali hanno vinto su tutto, sarà che ci sono tanti. Lei è avvocato, ma no, senatrice? No, guardi, se avessero vinto avrebbero. Lei, anche... lei è avvocato, no, vero? No, io sono architetto. Ecco. Però se avessero vinto avrebbero avvocato. Però ho capito, senatrice, ma i giocatori restano ancora in piedi. Ma sì, poi li fare, no, oggi non ho tempo per farli ascoltare, però non hanno, cioè alla fine niente, gli ordini restano come sono, dall'avvocato non è obbligato a farmi preventivo. No, io scusi, la devo un attimino, può sembrare così, ma la vera liberalizzazione è aver abrogato tutte le tariffe. Non sì, ci il tariffario minimo l'avete elevato, va bene. Questo... Il minimo è stato elevato via. Le volevo fare una domanda, senatrice. Lei era chiaramente nella maggioranza adesso, era nella maggioranza anche prima. Quindi è vero che, o meglio, non è vero che il governo Monti aiuta le banche? Guardi, il decreto, secondo il mio punto di vista, era un po' debole in questo senso. Sulle banche, cioè era troppo condiscendente sulle banche. Sì, era e ci avete pensato voi? No? Affrontava il problema in maniera un po' timida. Il Parlamento lo ha rafforzato con determinati provvedimenti, quello di oggi è quello, diciamo, più clamoroso, e ha aiutato, no? Il processo di liberalizzazione. Non abbiamo fatto marcia indietro, anzi su questo abbiamo introdotto una norma sul divieto degli incroci che completa quanto già era stato fatto nel Salva Italia in maniera assolutamente rigorosa. Ecco, infatti su questo io riconosco che il passaggio parlamentare, come deve essere in una democrazia parlamentare, sì, è servito anche in alcuni casi a far emergere lobby, avvocati, ordini professionali, tassisti si è fatto pochissimo, sui farmacisti si è andati al pareggio, si poteva fare un po' di più, notai pareggio e quant'altro, però si sono introdotte anche delle cose, dei correttivi tipo questo sulle banche. Perché non siete riusciti a farlo col governo Berlusconi? Guardi, i conservatori e i riformisti sono trasversali. Ci sono, non è che non ci è riuscito il governo Berlusconi, non c'è riuscito gli ultimi 20 anni nessun governo, perché i governi di coalizione... Beh, Bersani ci aveva provato, poi se lo sono rimangiato. Sì, vabbè, abbastanza. Poi i governi di coalizione sono obbligatoriamente portati a delle mediazioni e questo non è stato consentito. Detto cioè ciò, lei mi sta dicendo che quando il governo è vera espressione parlamentare, cioè... dei collegi, non si riesce a far nulla. Quando è un governo tecnico riuscite anche voi a avere mano più libera? No, è interessante, così, però, cioè, è così, interessante, è così, come però la classe politica oggi ha raccolto il grande senso di responsabilità nei confronti di un paese che stava precipitando. Non creda che non abbiamo avuto delle resistenze né noi del PDL né gli altri, diciamo qualche componente da parte del PD. Delle resistenze ci sono state, ma ha prevalso la logica della responsabilità. Poi la politica ha fatto la sua parte. Sì. E ha trovato, senatrice, ha prevalso anche la logica della sicurezza personale, perché c'era una situazione che era difficile uscire dal Parlamento in alcuni giorni. Ma mi dica una cosa, faccio un appello a Mussari. Ripensaci. Il Parlamento era difficile uscire dalle stanze. Era uscito dalle stanze. Ho capito, adesso per le lobby, ma fanno più male i manifestanti dei lobbisti, si figuri. Mi dica una cosa, un appello a Mussari, visto che lei, insomma, Mussari torna, ripensaci, non è contro di voi. Cosa? Io dico che c'è un bell'uomo, è anche un bell'uomo, Non ho il piacere di conoscerlo personalmente. Io non vorrei, appunto, come le dicevo prima, che questo fosse appunto la goccia che ha fatto traboccare il vaso di un problema di fragilità complessiva oggi del sistema bancario. Cioè, detto ciò, questo, diciamo, muro contro muro non serve. Probabilmente, o ripensandoci, cioè, comunque avendo un atteggiamento che da un lato comprenda quali sono i problemi oggi reali dei cittadini e di un sistema produttivo e delle imprese, si possono trovare delle mediazioni anche nel rapporto tra cittadini, imprese e banche. Il problema c'è, ma bisogna capire che non si possono ancora conservare in tutti i settori, partendo dalla burocrazia arrivando su questo siamo d'accordo, i vecchi privilegi, cioè io dissi all'inizio, se Monti farà male a tutti a 360 gradi il governo terrà, se scontenta solo un settore va giù, ma se scontenta tutti, banche, tassisti, farmacisti, giornalisti, ordini professionali, sindacati, Confindustria, forse regge il colpo. Grazie alla senatrice Simona Vicari, complimenti per la norma. Da Sebastiano Berisoni è veramente tutto, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.